blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Quando starà meglio le farò vedere le mie lauree. Lei era sicuro che avessi problemi vascolari. Ora non posso più camminare e porto il pannolino. Come mi ridurranno i suoi esperimenti? Non voglio fare esperimenti, spero di guarirla. Ma capisco che davanti al dubbio è meglio morire. Come mai, Zoppo? Ho avuto un infarto. Un infarto cardiaco? È sempre la conseguenza dell'occlusione di un'arteria a causa di un embolo. Può essere cardiaco, polmonare. Se al cervello è un ictus, io l'ho avuto a una gamba. Non c'era proprio niente da fare. Ci sarebbe stato, e come? Con una diagnosi indovinata. L'unico sintomo era il dolore ai muscoli. Non molti conoscono l'atrocità di quel dolore. Ha creduto di morire. Ho sperato di morire. E così lei si tiene nascosto. Anche se lievemente appannato nell'immaginario femminile, ma perché si sono sovrapposti altri modelli, il dottor House rimane un fulgido esempio di maschio che comunque riesce a smuovere l'indifferenza. Beh, immaginate che assieme al dottor House un'infinità di altri personaggi e di altri spunti presi dalle serie TV americane che molti ormai hanno abitudine di avere inserito nel loro palinsesto quotidiano, perché sono fatte benissimo, ma soprattutto perché dietro c'è uno studio molto profondo. Non è che la narrazione di quelle storie, la creazione di quei personaggi sono casuali, rispondono a delle regole ben precise. Regole che valgono per la fiction, ma regole che valgono anche per la realtà, soprattutto per la realtà politica. Lo studio di questi schemi, dei rapporti fra le persone, della narrazione e soprattutto di quello che a noi trasmette questo tipo di narrazione, può essere un importante studio per la politica, tanto che Matteo Renzi qualche mese fa, a giugno, proprio parlando della formazione politica del suo partito, dice: bisogna cambiare tutto, non sono più i tempi delle frattocchie, delle scuole di partito, dobbiamo utilizzare le serie TV americane per formare i nostri quadri. Ecco, vorremmo capire quanto in realtà questo poi affonda in qualcosa di praticabile, di attuale, quanto sta già accadendo. È possibile fare dei confronti fra quelle che sono le narrazioni delle serie americane e quello che sta accadendo nella politica? Possiamo rivederci alcune strategie della narrazione d'impresa, se consideriamo un messaggio politico, uno schieramento politico come un'impresa, e comunque deve in qualche maniera far strada e promuovere e convincere che il proprio prodotto è il migliore. Per farlo questa mattina abbiamo chiamato degli esperti. In particolar modo è uscito proprio da pochissimo un libro, Siamo tutti storyteller, dalla fiction americana alla politica, scritto da Andrea Fontana e Esther Mieli, editore Amigdalia e Giulio Perrone, che in sintesi fa un lavoro che apparentemente sembra un divertissement, sembra un gioco di corrispondenza, ma in realtà secondo me ha delle basi ben profonde. Mette in relazione alcune delle più note serie americane con alcuni atteggiamenti, alcuni modi d'essere, alcune figure anche della politica italiana. Uno dei due autori, Andrea Fontana, è proprio un esperto di storytelling, quindi di arte del saper raccontare e di passare attraverso il racconto comunque delle strategie, delle dinamiche, e quindi lo abbiamo al telefono. Andrea Fontana, buongiorno. Buongiorno. Allora, Andrea Fontana insegna storytelling e narrazione d'impresa all'Università degli Studi di Pavia. Ha una grande esperienza in questo campo e quindi dimostra il fatto che insegnando all'università non stiamo a parlare di qualcosa che attiene soltanto alla sfera del futile, dell'intrattenimento, ma è una maniera molto concreta e molto seria anche per affermare pensiero, ideologia, modi d'essere, stili di vita, o sbaglio? È assolutamente così. Negli ultimi 20 anni lo storytelling è diventato un vero e proprio approccio alla comunicazione. All'estero è molto usato, in Italia stiamo incominciando ad adoperarlo, in realtà in politica è arrivato da un po', e come approccio alla comunicazione può essere applicato a diversi campi. Ma l'aveva detto mai qualcuno prima di Renzi? Usiamo questo tipo di strategia, prendiamo questo tipo di terreno, diciamo, di ispirazione? Ma forse Renzi è stato il primo a dichiararlo, però Renzi non è stato il primo a farlo, nel senso che se parliamo di storytelling il primo sicuramente è stato, le tecniche narrative sono state introdotte in Italia da Berlusconi. Che ancora non si chiamava così, sembrava un affabulare, un raccontare, però c'erano delle basi concrete anche scientifiche secondo lei? Sicuramente sì, perché se andiamo a vedere tutto il racconto berlusconiano è stato costruito secondo ben precise strategie che andavano naturalmente bene per l'Italia degli anni 90, della famosa discesa in campo, e per l'Italia dei primi anni del 2000. Naturalmente oggi Renzi sta facendo altro e sta usando nuove tecniche. Ecco, solo velocemente per capire le differenze, se non sbaglio Berlusconi ha un appoggio più di creazione del mito dinastico, almeno agli inizi, le famiglie, i nonni, i genitori, le zie e via dicendo, l'uomo sarà fatto, la sua storia. Questa cosa non esiste assolutamente però nel caso Renzi, anzi forse probabilmente meno parla della propria dinastia meglio è in questo momento. Questo è interessante perché Renzi sta tentando di usare il coinvolgimento massimo dei suoi pubblici e cerca di raccontarsi attraverso i suoi pubblici. Faccio questo esempio, prendiamo il video che ha lanciato la settimana scorsa per reagire alla polemica con la Camusso, il segretario della CGIL. In questo video è molto interessante vedere come Renzi non tanto difende il suo operato di governo, ma inizia a parlare di due storie di vita, di Marta che ha 28 anni e che non ha la possibilità di avere il diritto alla maternità, oppure di cita Giuseppe che ha 50 anni e che non può avere la cassa integrazione. Attraverso il racconto di vita di questi due personaggi poi si difende e racconta il suo operato. Quindi la ricerca del testimonial, si cerca un testimonial che appoggi una tesi, un operare. Sì, quasi un ambasciatore del proprio racconto, più che un testimonial direi, mentre Berlusconi era lui l'ambasciatore, era lui il testimonial principale ovviamente. E cercava anche personaggi diciamo dello spettacolo, almeno agli inizi, si ricorda i grandi testimoni, i primi furono proprio i personaggi, il grande spettacolo, da Mike Bongiorno a Vianello, che erano approdati alla televisione, quindi loro confermavano che quella era la via giusta. Ma a differenza di allora, oggi, visto che sono passati 20 anni, stiamo vivendo in un periodo molto critico e quindi non possiamo più avere un ambasciatore importante, un super ambasciatore lontano da noi, dobbiamo avere ambasciatori vicini che in qualche modo siano nel nostro quotidiano. Ecco, io vorrei entrare nel proprio in merito al libro che ha scritto insieme a Ester Mieli. Vediamo, possiamo fare un esempio concreto di quanto un telefilm americano possa aver influito o possa essere un terreno di ispirazione per una strategia politica? Mi faccio un nome, visto che mi sono preso le clip e poi entriamo in merito, ad esempio. Ma per esempio sicuramente noi nel nostro libro abbiamo citato House of Cards, che è sicuramente una fiction molto importante da seguire, abbiamo citato Breaking Bad, abbiamo citato Lie to Me, lo stesso Dr. House di cui si parlava prima. Sono fiction che in qualche modo fanno vedere come oggi, se ci vogliamo raccontare, non possiamo raccontarci lontano dalle persone a cui ci stiamo rivolgendo, ma esattamente come i protagonisti di tutte queste fiction dobbiamo essere vicini ai nostri pubblici e soprattutto mettere in moto una specie di arco di trasformazione del nostro racconto. Allora sentiamo un attimo un frammento di Breaking Bad, poi lei mi dà diciamo il corrispettivo e il perché è un simbolo ispiratore questa fiction. La chimica è lo studio delle sostanze, ma io preferisco vederla come lo studio dei cambiamenti. Signor White? Sì. Ha capito cosa le ho appena detto? Sì. Cancro ai polmoni, non operabile. Ecco, questa è la storia triste, drammatica di un professore di chimica a cui viene diagnosticato un tumore e quindi ha una vita limitata nel tempo e nella sua efficienza, quindi studiano stratagemma per riuscire comunque, sfruttando le sue capacità, a dare una vita dignitosa alle famiglie. Walt, ti prego, vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo. Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto il guadagno? Il professore, come è noto agli appassionati di questo genere, si mette a lavorare le metanfetamine, che lui era molto bravo, le conosceva, e quindi riesce a a spacciare droga e quindi guadagnare con quello che è il frutto illecito delle sue capacità. Allora, su questa, Andrea Fontana, su questo tipo particolare di fiction, come può trovare poi un allaccio con la politica? Perché in realtà è l'usare in maniera strumentale e anche criminale un proprio talento. Sì, questo senza dubbio. Noi nel libro Siamo Tutti Storyteller abbiamo cercato di sottolineare il fatto che oggi c'è una personalizzazione estrema della politica. Nel caso del protagonista di questa fiction si vede come lui diventa una specie di Scarface involontario, e abbiamo cercato di sottolineare nel libro questo pericolo fondamentalmente, quindi la maschera di Breaking Bad di Walter White l'abbiamo usata per mettere in guardia i politici da quello che non si dovrebbe fare da un certo punto di vista. Ecco, chi è che rischia di più in questo momento se si avvicina a questo modello? Che un modello può essere suggestivo, può essere dirompente, ma non è certo un modello che può creare consenso se dichiarato apertamente. Credo che il rischio siano i tre grandi racconti politici che abbiamo in Italia oggi, quindi sia Renzi, sia Grillo, sia Berlusconi in qualche modo. Forse il più esposto per ovvi motivi di governo è Renzi, perché la super personalizzazione della politica porta poi un accentramento e a un'eccessiva perdita di contatto con la realtà poi. Quindi ecco, diciamo, se vogliamo trasformarlo in qualcosa di metaforico, è che molte volte non è sempre detto, non è sempre giusto che il fine giustifichi i mezzi. Potrebbe venire il momento del redderazione, ma anche di fronte alle più disinibite e ardite delle strategie. Melog. Cronache meridiane. Non dirà una parola. Non fa niente. Non importa, tanto non faccio affidamento sulle parole. Statisticamente, in media, una persona dice 3 bugie ogni 10 minuti di conversazione. E vi assicuro, parlo di gente normale, non di chi mette bombe in una chiesa di un quartiere nero. Questo caso è diverso. Non c'è tempo per i numeri da circo di questo scienziato. Sono già 4 ore che lo interroghiamo. Un amico del dipartimento dice che questo tizio è matto. Ha passato 3 anni nella giungla per studiare le sue questo supercilie. Lie to Me è una delle più intriganti di queste serie, questo gruppo di poliziotti molto particolari che riescono, guardando molte volte dietro il vetro oscuro le persone che vengono interrogate o vedendo anche semplicemente un filmato, individuare e capire cose che a un occhio non allenato, non scientificamente addestrato all'analisi del comportamento, riescono a capire, intuire e avere elementi importanti poi per trovare le prove per incastrare i criminali. Volevo introdurre un altro ospite e poi torneremo con Andrea Fontana, che è Edoardo Novelli. Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno. Insegna comunicazione politica all'Università Roma 3, ha scritto vari saggi sul rapporto fra TV e politica e in particolare vorrei sapere, al di là dello specifico delle serie americane, quanto la narrazione, secondo lei, in questa fase della politica è importante. Beh, sicuramente ha preso un ruolo centrale. Non è che la narrazione in politica non ci fosse mai stata, insomma, se vogliamo anche i partiti tradizionali avevano delle narrazioni, raccontavano, popolavano la loro ideologia di una storia che poteva essere le soglie dell'avvenire, una giustizia futura, un diverso ordine, eccetera eccetera. Però i principali protagonisti di queste storie erano poi i partiti e l'ideologia, cioè sostanzialmente l'ideologia forniva già una sorta di cornice, una sorta di trama centrale. Però era generale. Come fosse un testo metafisico, qua ci si riferisce a cose che la gente conosce. Esattamente, rischiava di essere, poi era basato su, erano astratti molto spesso, non avevano i protagonisti, non avevano gli eroi, gli antieroi, o almeno lo avevano solo in parte. Oggi, come si diceva prima, con la grande venir meno della grande capacità di presa, del grande appeal delle ideologie, e dall'altra parte, quasi come una conseguenza dell'emergere dell'elemento personale, della leadership, del personaggio, non solo del politico ma anche dell'uomo, che vediamo che questo dato è sempre più emerso, è ovvio che la politica si basa su raccontare delle storie, e delle storie che molto spesso sono incarnate nei loro leader. Si dice che i grandi leader, i leader più così centrali, importanti, più popolari, sono quelli che molto spesso già nella loro biografia, già nel loro modo di essere, già nel loro, si dice, usando un termine, lifestyle politics, cioè nel loro modo di vita incarnano la loro proposta politica. Berlusconi da questo punto di vista era assolutamente perfetto, no? Perché l'uomo che si è fatto da solo, quello che diceva contro i politicanti di professione, l'uomo che aveva saputo realizzare dei sogni, c'è un famoso spot per le europee che entra praticamente una specie di curriculum di successi, non parla di progetti economici, di vita, eccetera, è una sorta di curriculum dei successi dall'edilizia alla televisione di Berlusconi, e poi dice: ma da chi vorreste essere rappresentati in Europa? Da un politicante qualsiasi o da uno come lui? Scusi Bonovelli, in questo punto trovo una totale divergenza rispetto, diciamo, a quello che oggi viene considerato, non voglio dire un successore, ma in un'analisi molto superficiale usa gli stessi strumenti di Berlusconi, che è Matteo Renzi. Matteo Renzi non ha assolutamente nessun elemento di epica individuale, sembra nato il giorno che l'hanno eletto. A lui infatti che cosa propone? Non è che gli strumenti, usando questi strumenti, si racconta sempre la stessa storia. La narrazione si racconta l'Odissea, ma si raccontano i Promessi Sposi, cioè le storie poi sono diverse. Renzi, proprio perché rinasce tutti i giorni, è il perfetto testimonial, il perfetto protagonista di una storia del nuovo, del cambiamento, della rottamazione. Renzi è uno che ha fatto politica tutta la vita, però ha questa capacità di presentarsi sempre come quello che è contro l'apparato, contro la politica, contro le cose vecchie, sempre nuove, eccetera. Però ecco, è un altro esempio di come la sua biografia, pensiamo anche Obama, come la sua biografia è qualcosa di centrale. Il modello è quello, l'abbiamo visto, la rassegna dei leader europei, tutti belli, tutti in camicia bianca, tutti abbronzati, tutti maschioni, e c'era un elemento coreografico non indifferente. Quello c'è un elemento coreografico centrale, però adesso tutti questi personaggi, questa nuova generazione che sicuramente incarnava alcuni degli elementi anche politici della proposta politica, cercava di impersonificarli, avessero però proprio le biografie così coerenti. Renzi sicuramente la sua storia, il suo personaggio è coerente, perché il tentativo è quello sostanzialmente di incarnare lui, perché non ha un retroterra dietro, non ha appunto un partito a cui si è fedeli, un'ideologia che sostanzialmente fa orientare e fa capire già da senso la sua proposta. Senso, la sua proposta molto spesso lo fa il singolo leader. Allora, Andrea Fontana, ricordo autore di Siamo tutti storyteller insieme a Esther Mieli, dalla fiction americana alla politica, Giulio Perrone editore, Amigdala e Giulio Perrone editore. Vediamo proprio in conclusione, ci sono anche altre figure che non sembrano centrali ma emergono, rappresentano novità, ad esempio le figure femminili di questa fase della politica, anche su queste probabilmente fanno parte di un grande tessuto di racconto, sono anche loro dentro un telefilm? Assolutamente sì, direi, credo che potremmo definirla come processo teatralizzazione dell'esperienza politica, quindi abbiamo sicuramente Renzi che è il leader, ma abbiamo una serie di coprotagonisti maschili e femminili dove l'elemento femminile diventa un importante aggancio per creare ancora di più consenso con la narrazione politica. E qual è la differenza di passo rispetto alle le femmine della puntata precedente? Ma questo implicherebbe una grande analisi, però credo che la differenza principale sia una sorta di archetipo, diciamo così, nel senso che le femmine della puntata precedente potremmo definirle femmine aggressive, permettetemi questo termine, sicuramente molto autonome, molto forti, pensiamo a una Santanchè per esempio, mentre le femmine della puntata che sta andando in onda attualmente sono molto più angelicate, molto più seducenti, molto più in qualche modo madri, ecco, direi che la differenza è questa. E fra una versione dolce stilnovista e una versione che riporta alle grandi madri, quindi praticamente ci mette bene tutto quello che è ben lontano dal modello precedente, che è un modello di aggressività, di sessualità, di femmine che erano lì per una grande loro valenza estetica, al di là proprio dei mormorii, delle storie, dei pettegolezzi, erano donne di presenza. Queste dovrebbero essere donne forse più di sostanza. Nonostante quello, vedo che il mondo della grande narrazione riesce a trovare elementi anche in queste di attenzione, non sia proprio legata soltanto all'attività politica. Io ringrazio Edoardo Novelli, ringrazio Andrea Fontana.